Siamo figli di Pitagora e di Casadei, di Machiavelli e di Totò, cresciuti con una morale cattolica e con il rock and roll. Siamo figli di Pitagora e di Trinità, di Michelangelo e Dario Fo, cresciuti con una morale cattolica e con il rock and roll. E con il rock and roll. E con il rock and roll. E con il rock and roll. Depeche Mode.